C'è una trattativa in corso, adesso non sappiamo ben spiegarvi a cosa porterà. Comunque abbiamo delle testimonianze dirette delle persone che sono venute qui a manifestare sotto da vari punti di vista, ci sono anche dei lavoratori licenziati nel corso di questi mesi. Adesso passo la parola a Vincenzo che vi presenterà un amico e un lavoratore. Benissimo. Buongiorno Marco, buongiorno a voi Vincenzo, tutti. Ciao. Sono qui con due capisaldi, insomma, delle battaglie dentro le ferrovie in questi tempi, ma per Riccardo Antonini, licenziato da qualche settimana dalle ferrovie perché parte integrante della difesa della strage dei parenti della strage di Bologna, e per questo è stato accusato che le ferrovie non ha più fiducia in lui dopo impicci imbrogli che hanno fatto. Viareggio, scusami, ci mancherebbe, sì. Purtroppo ce ne sono state tante, quindi il lapsus non è casuale. E poi ti porterò al telefono anche Dante De Angelis, su cui la radio conosce benissimo la grande battaglia che abbiamo fatto e che sta in questo momento in corte d'appello, perché ovviamente le ferrovie vuole a tutti i costi cacciarlo via anche lui, nonostante la sconfitta al primo grado. Ti passo allora a Riccardo Antonini, che sarà lui a dire perché oggi è qui e che battaglia anche a Viareggio si continua a fare. Benissimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, ciao. Siamo qui per rendere visibile quanto è avvenuto a Viareggio il 29 giugno 2009, una strage con 32 vittime. Volevamo essere presenti anche noi con i volti di queste vittime, i loro familiari, a questa inaugurazione della stazione Tiburtina, ma ci hanno bloccato più volte. Adesso siamo qui nella piazza con lo schieramento di polizia. C'è stato un corpo a corpo vivace, diciamo così. Ora c'è una trattativa in corso per essere ricevuti da o il ministro della Repubblica, o il presidente, o il ministro dei trasporti, per rivendicare la sicurezza in ferrovia, rivendicare la verità sull'iter processuale e chiedere con forza la reintegrazione del sottoscritto, che è stato licenziato per un conflitto di interessi a detta delle ferrovie, nel senso che essere schierati con i familiari per loro è fare interessi dei familiari e della sicurezza. Ora c'è un po' di tensione, quindi non si sa bene come si svolgono i fatti. Io vi posso dire che per quanto riguarda Viareggio la mobilitazione continua. Stamani siamo partiti alle 4:30 con Pulma, siamo una quarantina e sicuramente continueremo questa battaglia fino in fondo per la sicurezza, la verità e la giustizia, e oggi possiamo dire anche per l'agibilità sindacale nei luoghi di lavoro, per tutti quei compagni lavoratori impegnati sulla sicurezza che vengono colpiti in ferrovia e in tanti luoghi. Oggi sono presenti anche i lavoratori della Vagonite, che hanno solidarizzato con noi e noi con loro per la perdita del posto di lavoro. Quindi fatto positivo è che c'è questa unità di intenti, di mobilitazione su sicurezza, diritti, lavoro e verità rispetto al processo di Viareggio e di tutte le altre stragi avvenute in questi anni, che sono rimaste purtroppo dimenticate e impunite. Riccardo, ci vuoi fare per capire un po', insomma, il problema della sicurezza? Non ti sento. Adesso dovresti sentirmi meglio. Ora dovresti sentirmi meglio, credo. Pronto? Come? Riccardo, mi senti adesso? Sì, ti sento. Negli ultimi anni in generale, qual è stato il saldo delle vittime per incidenti sul lavoro o nel trasporto ferroviario, per darci un po' un'idea? Negli ultimi 4 anni sono decedute 32-33 lavoratori tra ferroviarie e ditte di appalto, che vorrebbe dire un lavoratore ogni 50 giorni. E questa è una statistica infernale, micidiale, che noi vogliamo sovvertire, nel senso che vogliamo far sì che non ci sia più una vittima sul lavoro, né un viaggiatore, né un lavoratore, né tantomeno un cittadino. Ora c'è un momento di tensione, guarda, un attimo, Sì, sì. Va bene? C'è un momento di... E allora noi continuiamo a rimanere in diretta con la stazione Tiburtina. Siamo pronti a scontarci da un lato. dove, come potete ascoltare, allora, la situazione è ancora piuttosto complessa. Ecco, Vincenzo, dici. Aspetta che ti faccio dire due cose anche da Dante, che c'ha tutte le mani impicciate, ma sicuramente è in grado di parlare con Radio Onda Rossa di perché sta qui Dante De Angelis e qual è la situazione sua rispetto al licenziamento. Benissimo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Dante. No, io sto qui semplicemente perché penso che la Costituzione ancora è in vigore e io la voglio praticare, il diritto a manifestare, il diritto a partecipare a un'iniziativa pubblica di un'opera pubblica, nella quale sono direttamente interessato anche come lavoratore, e quindi sto qui a solidarizzare perché sono parte della tragedia di Viareggio. Io mi sento in colpa come ferroviere per quello che è successo a Viareggio e faccio fatica a capire perché tutta questa resistenza. Qui sono le mamme con le foto dei figli morti nel rogo di Viareggio, e c'è un clima che sembra di stare in guerra, è una cosa veramente drammatica, ingiusta innanzitutto, e dà l'idea di un clima che è inaccettabile. Io sono qui a testimoniare la mia solidarietà, quella dei ferrovieri, quella dei lavoratori. Ecco. Sì, fra l'altro, beh, insomma, le cariche contro chi manifesta sono sempre ingiuste, no, ma addirittura contro i familiari. Le cariche non ce ne sono state, anche se ora il clima è molto teso perché siamo in un momento in cui pare che la gestione dell'ordine pubblico sia fatta a nostro danno piuttosto che a nostra tutela, ecco, mm-hmm. Mi pare questo. Comunque l'importante è mantenervi lontano dalla stazione, mi ci pare di capire. Esatto, no, non ci vogliono far arrivare neanche in vicinanza della stazione con gli striscioni, questo non ha senso. Ho capito. Oltre a essere un'ingiustizia, non ha senso. Sì, però insomma, tant'è, ecco, voi state dove ci sono i pullman extraurbani, per capirci, sì, esatto, a qualche centinaio di metri dalla stazione. Un cordone che si sta preparando a caricare perché ci sono anche altri manifestanti che si sono allontanati, però. Sì, c'è una situazione molto dura in questo momento. Vi lascio perché va bene, sì, dobbiamo capire cosa sta per succedere. In caso ci sentiamo più tardi. Ciao. Grazie mille, ciao Dante. Ciao, ciao. Pronto? Eccoci. Ok, allora, la descrizione veloce, insomma, i momenti di tensione si sono assopiti, c'è stato un arrivo di alcuni studenti della Sapienza, adesso sono andati altrove, è rimasto semplicemente il presidio dei familiari delle vittime di Viareggio. Comunque bisogna dire una cosa, questa manifestazione oggi dei familiari delle vittime di Viareggio e dei lavoratori dell'SS ha un po' sciolto il clima di tensione che è stato costruito intorno a questa inaugurazione. Decine e decine di abitanti intorno alla stazione di Burtina che si sono mobilitate nel corso di questi mesi sono state inibite e impaurite dalla propaganda appunto sarà fatta d'arte da parte appunto sia dell'SS sia del sindaco, ma di tutti, anche delle forze dell'ordine, per dissuadere a qualsiasi forma di dissenso a questa inaugurazione. Sono varie le motivazioni, sapete che ci sono dei comitati che vanno da Casa Albertone alla Viburtina, a San Lorenzo, municipi investiti da questa grande opera che non hanno assolutamente ricevuto nessun tipo di beneficio, se non il fatto che gli viene detto che gli aumentano i prezzi delle case in funzione della nascita di una stazione così. Pensate cosa vuol dire tutto ciò, insomma, dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista delle opportunità, questi municipi sono stati assolutamente mai ascoltati e ci sono decine di piccoli comitati di quartiere, dalla stazione di Burtina a Casa Albertone, alla di Burtina stessa, a San Lorenzo, che si sono mobilitati nel corso di quest'anno. Ecco, questa militarizzazione, questo terrorismo ha prodotto appunto la non partecipazione di molti cittadini qua intorno che si sono impauriti. Beh, Viareggio e i lavoratori dell'FS oggi hanno secondo me dato molto coraggio invece alle argomentazioni di tutti su questa inaugurazione. Beh sì, insomma è stata una cosa importante e si sono pure presi un bel carico di responsabilità e anche di pesantezza, visto come è stata gestita la piazza fino adesso. Pericolosità, insomma, c'è stato veramente, e comunque a prescindere dal contatto che c'è stato, comunque la rappresentazione di questa distanza dalla politica, dalla gente comune è enorme. Oggi ancora una volta, insomma, questo paese, nonostante gli incensi dei professori, ha dimostrato di essere dal punto di vista politico distante dalla gente comune, dalla gente che vive, che lavora, che soffre la crisi. Questo è il dato su cui dobbiamo soffermarci e su cui bisogna comunque lavorare per invertire questa tendenza. Assolutamente, su questo non si può non essere d'accordo. Va bene, Rino, se non ci sono novità, noi andiamo a sentire anche altri, specialmente gli studenti, vediamo un po' dove sono andati e noi ci riaggiorniamo più tardi, perché immaginiamo che la mattinata sarà ancora piuttosto lunga. Ecco. Saluti a tutti.